avere scopato, ripartire da capo. Il cuore è un coltello affilato. Sarà possibile dirti solo la verità, quella che sanno solo i miei veri fra. E io pensavo se tu fossi me, lo so che tu saresti meglio, che mi terresti sveglio anche quando crollo. Tu sei così forte che riesci ad accendermi da spento, quando il buio che ho dentro mi stringe al collo. Ce ne fottiamo della gente che pettegola, non resta niente di quello che dice, solo l'eco fra. Conta che sei mia e non vuoi vedermi, che ti prego, ma lo sai che noi non siamo l'eccezione, noi siamo la regola. Io non mi fido dell'amore fra, perché è meschino, perché sei libero da tutto tranne dal destino. Vorrei che fossimo noi due, baby, è questo che so, perché la gente mente, i numeri no. Stomaco come portassi un chilo. Vorrei voltare pagina, anzi bruciare il libro. Ogni fine è un nuovo inizio, non ci credo ma lo dico. La verità vorrei cantartela, perché non te l'ho mai detta. Ho sempre il mal di testa, il mondo gira troppo in fretta. Se non fossi stato come sono avrei provato a conquistarti, ma adesso è troppo tardi, ci penso dopo il party. Come ti chiami? Dammi il tuo numero. Sarà come la prima volta, io ti ruberò. Sarà come il 2004, puro e senza contratto. Una ragazza e un ragazzaccio, lo stereo sotto braccio. Oh, baby,